Delusioni moderne, malattie di ignoranti, tra la gente per strada vedo sguardi distanti, me la vivo alla grande, ogni giorno è pesante dentro la mia città, qui ne vedo tante delusioni di amici, delusioni a chi dice di amarti, a chi dice di averti, a chi dice ti amo, a chi dice tesoro, per queste parole non esiste un perdono, il perdono è di Dio, io non sono nessuno, ma nessuno si rischia a sbagliare di tono, sempre preso bene come il re sopra il trono, e se sbagli con me non puoi star tranquillo, mi vedi ubriaco ma io sono brillo, mi hai detto coglione, ti prego ridillo e fammi felice, vedrà la reazione, ma dillo soltanto se sopporti il dolore. Delusioni logiche, malattie croniche, delusioni solamente illusioni, siamo anime disperse tra le mille situazioni e dateci delle nostre azioni. Delusioni logiche, malattie croniche, delusioni solamente illusioni, delle nostre azioni. Delusioni di vita, io non faccio fatica, scavalco gli ostacoli, non esiste un'uscita, se la via più difficile è quella che viene, io l'affronto con grinta, non mi taglio le vene, ne ho viste fin troppe, di crude e di cotte, mi alzo e cammino, anche con le ossa rotte, le nostre battaglie sono sempre in cammino, non se ne entra un film, non sentirti al bacino, o forse un bacino potrà consolarti, se tu credi in me ho la vita da darti, spesso soffriamo per causa degli altri, anche se a volte ci resta gli scatti, amarti, deluderti, illuderti, includerti, il terrore è soffrire, non provare dolore, cambiare il colore del nostro buon umore, pensiamo al domani, non cambiamo opinione. Delusioni logiche, malattie croniche, delusioni solamente illusioni, siamo anime disperse tra le mille situazioni e dateci delle nostre azioni. Delusioni logiche, malattie croniche, delusioni solamente illusioni, delle nostre azioni. Ripone aspettative, componi nuovi cori, curi cuori, punti scuri non li noti, anzi ruoti e noti, punti di forza, urti con forza, sineddoti che combaciano con qualche forza dura e non duratura, l'impura forzura al limite, si rivela spazzatura con la fregatura il limite, ma a me non mi freghi, son ciechi, getti medi di cui ti accerchi e solo gente allora c'è. Purtroppo reti se ne gettano a migliaia, spesso via il complotto e la delusione in guaia, in faida per collisione e continuazione, il collasso in fatua con confusione, contusione e sconquasso, come un fracasso il mio impianto, nessun rimpianto contro i fautori di ogni impianto, intanto sto cauto in storia magistra vite, si regoia le mie ire per l'infierire di ferite. Delusioni logiche, malattie croniche, delusioni solamente illusioni, siamo anime disperse tra le mille situazioni e dateci delle nostre azioni. Delusioni logiche, malattie croniche, delusioni solamente illusioni, siamo anime disperse tra le mille situazioni e dateci delle nostre azioni.